allontano perché la vita è così bella, lo sai, e vedrai che troverò la strada per stare insieme a te. Stare insieme a te.